Giorgi, i corneri c'è per la mani. Giorgi, Giorgi, i corneri salia per la mani. Badara badara kwabetara barake meri meri tere fela salia mayeji sayatara badara badara kwabetara barake meri tere fela salia mayeji. Oggi, oggi, oggi, oggi, i ca salia per la mani. Ningati mi coraggi, te se capirà. Ningati mi coraggi, te se capirà. Ninga dimi, ninga dimi, coro. Chi te sei capoeira? Ninga dimi, coro. Chi te sei capoeira? Mimi, menko, meni, migi. Mimi, menko. Remember.